Così, dico due cose veloci, anche se siamo, diciamo così, tra amici, o più o meno vedo tutte facce conosciute, quindi meno male, dice Claudio. Ci siamo abituati. Ma l'idea è stata un po' così, quest'anno di iniziare con la terratrema un giorno d'anticipo, in questo modo, con questa chiacchierata. Perché ci sembrava bello un attimino condividere una serie di riflessioni, più che altro di narrazioni che abbiamo incontrato in questi anni di terratrema. E di farlo non durante i giorni di fiera, di festa, che inizieranno domani. Beh, io mi chiedo scusa per la voce e per tutte le stupidate che da questo momento in poi potrò dire, perché è una settimana che siamo qui a lavorare, a montare, e mesi di preparazione, quindi sono un po' cotto. E niente, abbiamo deciso così di invitare un po' di persone che a nostro avviso sono incontri significativi che abbiamo fatto in questi anni di terratrema e di Critical Wine prima. E niente, volevamo iniziare la serata con questo video. Abbiamo la fortuna che c'è qua Giuseppe Lirosi, che è protagonista di questo video. Ci vediamo il video e poi iniziamo con gli interventi, iniziamo con lui, con queste narrazioni che vogliamo un attimino metterle allo specchio con un altro tipo diciamo così, di scenario, che a nostro avviso necessita un altro tipo di racconto e niente. Iniziamo col video, poi vediamo cosa viene fuori, insomma. Buona serata a tutti.